Alle 11:50 il corteo degli studenti medi termina in piazza San Marco. Un centinaio di compagni si avviano, lanciando slogan antifascisti, verso Piazza Indipendenza, dove c'è la sede dei fascisti del Movimento Sociale Italiano. La polizia reagisce immediatamente, sparando candelotti lacrimogeni e minacciando i compagni con le pistole. Alle 17:30 a Piazza Santa Croce c'è il concentramento della manifestazione generale cittadina indetta da tutta la sinistra extraparlamentare. Il corteo di 7.000 compagni si scioglie in Piazza Santa Maria Novella alle 18:30. Tutti i compagni, a gruppi e a squadre, si avviano verso Piazza Indipendenza, chi passando dal Mercato Centrale, chi da Via Nazionale. La polizia difende gli accessi a Piazza Indipendenza e in tutte le strade intorno si erigono barricate. Gli scontri sono immediati e divampano in tutto il centro storico, particolarmente intensi nel quartiere di San Lorenzo. Alle 20 le segreterie di lotta continua, Partito di Unità Proletaria, Avanguardia Operaia, emettono un comunicato in cui possiamo leggere: andate a casa, è stata una grande giornata antifascista. Ma ben pochi raccolgono l'invito. Questa volta alla polizia resta difficile fare i soliti arresti dal rastrellamento. Le strade sono piene di gruppi organizzati. La giornata non è finita. Ed ora ascoltiamoci una canzone di Giovanna Marini, La manifestazione in cui morì Zibecchi. Nella piazza è un gran groviglio, tutti corrono, gridano, piangono, perché dentro casa non è successo niente. Ma lì si vede le grida, la puzza e il fumo si sente, assassini, assassini, continuano a gridare. Arrivano due uomini con le magliette chiare, piangono, tossiscono, non sanno più parlare. Zibecchi è per terra, la testa sullo scalino, le braccia poi in avanti, ma come per chiamare, la testa resta indietro. Ferma due cialerini, assassini, assassini, gli avanza le mani, ne vengono giù 10, scendono da un gipone e trascinano la donna sopra un'auto militare. Di lei da quel giorno non si è più sentito parlare, corteo, corteo, incominciano a gridare, ma le gipi impazzite non fanno più passare. Vengono degli uomini, le mani piene di sassi, guardate, guardate, ci sparano addosso, sparano, sparano, corre la voce, aumentano le grida, la gente si butta per terra, chi raccoglie il posto e li guarda senza fiato, chi cerca di scappare. Gli scontri si protraggono fino a notte inoltrata. Alle 21.30 c'è una manifestazione indetta in piazza San Marco dall'Ampi, a cui aderiscono PC e PSI. Alla fine del comizio i compagni presenti cercano di far partire un corteo verso Piazza Indipendenza, ma il servizio d'ordine del PC si frappone violentemente e lo impedisce. I compagni tornano alla spicciolata nei pressi di Piazza Indipendenza. Le camionette e le pantere si aggirano a fari spenti a passo d'uomo, per poi lanciarsi a sirene spiegate e riaccendendo improvvisamente i fari contro le persone che passavano. Si è sparsa la voce, vera, di squadre speciali dell'antiterrorismo in azione. Sono gruppi di 10 poliziotti in borghese con i fazzoletti sul volto che avvicinano i compagni isolati, li pestano e li trasportano alla vicina caserma Fadini, dove subiscono nuovi pestaggi. Sono le squadre speciali che vedremo massicciamente in azione nelle piazze del 77, responsabili, tra l'altro, dell'assassinio di Giorgiana Masi durante una manifestazione del Partito Radicale a Roma. Alle 23.40 circa in Via Nazionale si raggruppano un centinaio di compagni militanti della sinistra rivoluzionaria, ma anche della Casa del Popolo del Vecchio Mercato. Vicino alla sede del Movimento Sociale un gruppo di 9 agenti, una squadra speciale della polizia, sta massacrando di botte con bastoni e calci di pistole un compagno. «Fascisti assassini!» viene gridato dai compagni. In quel momento un compagno dell'autonomia, Francesco Panichi, scende da una Fiat 500 convinto, come tutti gli altri, di essere di fronte a un pestaggio operato da militanti fascisti. Dalla squadra partono i primi colpi di pistola contro i compagni che avanzano e ora si sparpagliano. L'agente di PS, Orazio Basile, si inginocchia, prende la mira con la sua pistola e fa fuoco. Rodolfo Boschi viene centrato alla nuca e cade ucciso. Basile spara ancora, ferisce Panichi a un braccio e un altro compagno che, colpito a una gamba, riesce ad allontanarsi. Altri colpi vengono sparati, alcuni colpiscono i muri delle case, altri le saracinesche dei negozi. Boschi rimane in fin di vita per terra per più di 20 minuti e accanto a lui Francesco Panichi, a terra, viene minacciato con la pistola da un agente che dice «Fermo o ti ammazzo!». Questa è la prima volta in cui vengono utilizzati agenti in borghese travestiti da militanti di sinistra per picchiare e arrestare manifestanti. Ed ora ascoltiamoci una canzone di Pino Masi per Claudio Varalli. È sul giorno la faccia schiacciata per terra, sembrava una foto di guerra, eppure era solo Milano. La foto è sul giorno, la faccia schiacciata per terra, sembrava una foto di guerra, eppure era solo Milano. E c'è chi non sa che la lotta diventa ogni giorno più dura, e c'è chi lo sa ma ha paura, e canta sempre più piano. Ma c'è pure chi non si lascia piegare dai neri e dai democristiani. C'è chi non aspetta domani per dire la sua verità. E c'è chi ci lascia la vita, come hai fatto tu a 18 anni, ucciso dagli stessi tiranni che ci rubano la libertà. Io ho visto la foto e sul giorno la faccia schiacciata per terra. Sembrava una foto di guerra, eppure era solo Milano. Io ho visto la foto e sul giorno la faccia schiacciata per terra. Sembrava una foto di guerra, eppure era solo Milano. Il 19 aprile il dottor Cariti, sostituto procuratore della Repubblica, dichiara agli avvocati di non avere alcuna intenzione di procedere nei confronti di Panichi per totale mancanza di indizi. Alcune sezioni del PC, i cui militanti avevano probabilmente partecipato agli scontri ed erano quindi a conoscenza di come si erano realmente svolti i fatti, avevano già stampato dei volantini di accusa verso la polizia. Dalla segreteria del partito venne però l'ordine di distruggerli. Un comunicato del PC che esce nella stessa mattinata accusa esplicitamente Francesco Panichi, definito noto provocatore sempre coinvolto negli incidenti degli ultimi mesi alla mensa universitaria e di fronte alle scuole, e inspiegabilmente mai fermato dalla polizia per le sue azioni provocatorie. Lo accusa di aver estratto una pistola minacciando gli agenti. Si legittima così non solo il clima di terrore e l'assassinio poliziesco, ma si invita la polizia a trasformare il Panichi da vittima a capro espiatorio. Una compagna che frequentava Piazza Santa Croce, il ritrovo dei compagni, racconterà: «Lì c'è stato da parte del PC un lavoro capillare per terrorizzarci. Questa cosa mi faceva proprio andare di fuori, perché nel PC c'era gente, c'era un sacco di gente. Per dirti, mio padre era del PC, era un compagno. Io il primo voto che ho dato l'ho dato al PC. Sicché la cosa che mi faceva impazzire era che il PC ci veniva contro. C'erano personaggi allucinanti nel PC. C'era questo ragazzo che giocava al calcio in costume nei bianchi, che era un gigante, un gorilla. E questo, una volta che io ero andata in un locale, mi piglia e mi dice: vieni, balla. Io non volevo ballare, avevo paura, e questo mi ha preso e io sembravo una piuma nelle mani di questo gorilla. Questo ha cominciato a parlarmi e a dirmi che ci ammazzava tutti. Questo perché? Perché lui era convinto che era stato il Panichi ad ammazzare Boschi. Questa gente qui ci credeva. È questa la cosa pazzesca. La campagna stampa del Partito Comunista per fare arrestare Panichi non si limita ai comunicati, ma si mettono in giro voci nei bar e nei negozi che Francesco ha sparato al Boschi. Questa tesi, ufficialmente sostenuta dal sindaco comunista di Scandicci, Orazio Barbieri, nel comizio la sera del 19 in Piazza Signoria di fronte a una folla oceanica. Ma i compagni della sinistra rivoluzionaria rispondono con fischi, slogan contro il compromesso storico e sfondano un cordone del servizio d'ordine del PC.

e che con la loro pratica di lotta gli rompono le uova nel paniere del compromesso storico. E ciò vale specialmente per la bestia rossa dell'autonomia operaia. La versione dei fatti fornita dall'Unità e dal comunicato della Federazione del PC è un vergognoso falso, dettato soltanto dalla volontà di scaricare le responsabilità della polizia su questo compagno. Il 23 aprile viene distribuito un nuovo volantino, questa volta firmato dai collettivi politici autonomi, dal collettivo Potere Operaio, dalla Quarta Internazionale, da Lotta Continua, da Avanguardia Comunista e dal Centro Mao Zedong, dal titolo «Smascheriamo la provocazione dello Stato Democristiano». Ne leggiamo alcuni stralci. Il compagno Francesco Panichi, ferito dalla polizia in borghese alla fine di una giornata antifascista che aveva visto Firenze proletaria in piazza, è stato arrestato nonostante che a suo carico non ci fosse la benché minima prova. È una montatura politica che si regge su basi giuridiche inconsistenti. I reati di cui è indiziato sono tentato omicidio volontario aggravato, detenzione e porto abusivo d'arma. Una serie di testimonianze e prove concrete stanno ulteriormente emergendo. 1. La prova del guanto di paraffina ha dato esito negativo. 2. La misteriosa pistola, una Bernardelli, rinvenuta vicino al compagno Panichi, almeno per ora, tra virgolette, non ha sparato. 3. Non esistono bossoli di pistola diversi da quelli calibro 9 in dotazione alle forze di polizia, uno dei quali ha ammazzato il compagno Boschi. D'altra parte, nessun agente di polizia è stato colpito. 4. I quattro fori sulla porta dell'hotel Ascot, attribuiti inizialmente a colpi di pistola sparati contro l'agente Basile, si sono rivelati buchi di trapano. Emerge, sulla base di numerosissime testimonianze e resoconti giornalistici, un quadro caratterizzato dall'azione di agenti speciali camuffati da dimostranti con blue jeans, giubbotti, barba e capelli lunghi e fazzoletti bianchi sul viso, armati di pistole e bastoni, che venerdì sera hanno aggredito cittadini e compagni isolati. In parallelo agivano agenti in borghese dell'ufficio politico della questura, in macchina una 128 verde e una gialla, e a piedi, tra cui l'incriminato Basile. E poi prosegue: questa posizione assunta dal PC fiorentino ricorda molto da vicino quella presa a suo tempo nei confronti di Valpreda, indicato dallo Stato borghese e da tutta la stampa padronale, ma anche dall'Unità, come il mostro autore della strage di Piazza Fontana. Trova la sua motivazione politica nella strategia del compromesso storico, compromesso che lo Stato della strage con la DC, del fermo di polizia, con la Fiat della cassa integrazione, con la polizia che uccide, contro i proletari in piazza, contro l'antifascismo militante, contro l'autonomia di classe. E ora ascoltiamoci un altro pezzo, Anna di Francia di Claudio Lolli. Francia che arriva, Anna che ride, Anna che scherza, Anna che ascolta, che parla, Anna che chiede, vuole sapere come andremo a finire la sera. Anna la piazza ti ama come Anna racconta l'ultima Francia, com'era grigia, com'era triste. Anna racconta un nuovo lavoro, sempre camice, solo camice. Anna ti sembra di essere pazza. Anna la piazza ti ama con me. Che mi porta via e vuole bere, vuole parlare, si infila in un'osteria. Forse stasera ha voglia di amore, Anna più bella che pazza. Anna la piazza ti ama, come Anna troviamo tanti amici. Uno comincia discussione, sono momenti quasi felici. Anna mi guarda, faccio il buffone, e dove sarà la cultura operaia? Anna che scuote la testa, che dice di no. Sola, ti è già stancata di prenderci in giro, e Luigi Nono è un coglione. L'alternativa nella cultura non è solo ideologia, l'alternativa è organizzazione. Anna si arrabbia, basta parlare. Anna si alza, andiamo via, e mentre la strada mi fa perdonare, c'è Anna che brinda alla sua anarchia. Anna imprendibile, più di un momento. Anna dà un bacio alla piazza e poi se ne va. Al processo che ne seguirà, l'agente Basile sarà condannato a 8 mesi con la condizionale per omicidio colposo in eccesso di legittima difesa. In primo grado, 10 anni di reclusione saranno inflitti a Francesco Panichi, imputato di reati minori. Le giornate d'aprile, così verranno chiamati questi giorni di mobilitazione continua in tutta Italia, innescano una crisi verticale nell'organizzazione fiorentina di lotta continua. Un duro scontro politico si protrae per qualche mese, concludendosi con l'affermazione della sinistra interna, parte della quale sembrava già fuori dal gruppo. Questa situazione produce anche un maggiore impulso di lotta continua nelle lotte sociali, con l'obiettivo di organizzare la sinistra attiva nelle scuole, nei territori, nelle fabbriche. Le giornate d'aprile rappresentano un punto di svolta. Il paese è scosso da lotte di potere. I picchetti operai non si limitano più a difendere gli scioperi, diventano forme offensive di lotta allo straordinario in fabbrica. Si creano le ronde operaie contro i crumiri, si sviluppano le mille forme di riappropriazione del reddito. Il sabato pomeriggio lo shopping è collettivo e non si limita più al furto dei libri alla Feltrinelli. Non c'è bisogno di complesse operazioni politiche per rifornirsi di maglie, giubbotti, pantaloni alimentari nei supermercati, come quello di Via Pietrapiana. Viene riscoperto Brecht e la sua famosa frase: «Dato che noi altri avremo fame, se ci lasceremo derubare, verificheremo che tra il pane buono che ci manca e noi solo un vetro sta». Dato che laggiù ci sono case, mentre senza tetto ci lasciate, decretiamo, ci entreremo e subito. Stare nelle tane non ci garba più. Ascoltiamoci ora un pezzo di Claudio Lolli, ancora. Ho visto anche degli zingari felici. Siamo noi a far ricca la terra, noi che sopportiamo la malattia del sonno e la malaria. Noi mandiamo a raccolto cotone, riso, grano e noi piantiamo il mais su tutto l'altopiano. Noi penetriamo foreste, coltiviamo savane, le nostre braccia arrivano ogni giorno più lontane. Da noi vengono i tesori alla terra carpiti, con che poi tutti gli altri restano favoriti. E siamo noi, noi a far bella la luna, con la nostra vita coperta di stracci e di sassi di vetro. Quella vita che gli altri ci respingono indietro, come un insulto, come un ragno nella stanza. Riprendiamola in mano, riprendiamola intera, riprendiamoci la vita, la terra, la luna e l'abbondanza. E non ci capiamo, e non parliamo mai in due la stessa lingua. E abbiamo paura del buio e anche della luce, è vero. E abbiamo tanto da fare che non facciamo mai niente. È vero che spesso la strada sembra un inferno, una voce in cui non riusciamo a stare insieme, dove non riconosciamo mai i nostri fratelli. È vero che beviamo il sangue dei nostri padri e odiamo tutte le nostre donne e tutti i nostri amici. Ma ho visto anche degli zingari felici corrersi dietro, far l'amore e rotolarsi per te. Ho visto anche degli zingari felici in Piazza Maggiore ubriacarsi di luna, di vendetta e di guerra. Ho visto anche degli zingari felici corrersi dietro, far l'amore e rotolarsi per terra. Ho visto anche degli zingari felici in Piazza Maggiore ubriacarsi di luna, di vendetta e di guerra. si diffonde l'autoriduzione delle bollette ed altri sistemi per riappropriarsi del reddito, dai meccanismi di blocco dei contatori dell'Enel, pellicole e altro inserite per non far girare la rilevazione del consumo, piccole chiavi per aprire i telefoni e infilare una cordicella chiamando senza gettoni ed altri sistemi creativi. Le giornate di aprile rappresentano l'inversione del passaggio segnato nel 69, dal movimento ai gruppi. Si fa ora il percorso inverso, dai gruppi al movimento. Si conclude così anche questa puntata di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte. Alla prossima!